Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena di oggi è quella di un trio decisamente particolare. Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe ti entra. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole farci già. Si chiamano Nicola, Andrea e Marco. Il loro nome d'arte come trio si rifà a quello del caposcuola del futurismo Filippo Tommaso Marinetti. Selezionati dal produttore Giorgio Bozzo, sono cantanti e attori e hanno esordito come trasformisti per le parti recitate all'interno dello spettacolo di Gennaro Cosmo Parlato. Nel marzo 2006 cominciano a lavorare per la preparazione delle parti vocali con il maestro Christian Schmitz. La loro ricerca artistica si basa su un rigoroso recupero filologico del suono degli standard musicali degli anni 30 e 40, all'epoca eseguito da solisti e gruppi vocali di grande notorietà, come ad esempio Silvana Fioresi, Delia Lodi e il Trio Lescano. Nel 2008 debuttano al Teatro Ciak di Milano e pubblicano il loro primo CD, Non ce ne importa niente, al quale seguono l'EP Notte di Natale e Signorine Novecento. Nel 2010 sono state in gara al 60° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, cantando con Arisa il brano Ma l'amore no. Loro sono le sorelle Marinetti. Io sono Andrea Lione e sul palcoscenico sono Mercuria Marinetti. Nicola Olivieri, che interpreta Turbina, la sorella maggiore. Qui è Marco Lugli, che interpreta la più birichina, Scintilla Marinetti. E poi c'è il maestro Christian Schmitz, e sono il coordinatore musicale del progetto. Allora, il progetto delle sorelle Marinetti è un progetto musicale, è un progetto teatrale, ma anche un progetto di studio. Chi mi vuole raccontare un po', per chi non conoscesse ancora, tutto quello che c'è dietro le sorelle Marinetti? Ma l'idea del progetto Sorelle Marinetti è nato da Giorgio Bozzo, che è il nostro autore e produttore, e in parte anche mia, ed era nata da una passione per il Trio Lescano. Quindi accanto alla passione musicale e il desiderio di ricreare un certo tipo di musica, noi ci occupiamo solo di musica swing e jazz italiana degli anni 30 e 40, c'era anche l'idea di creare uno spettacolo, quindi un modo per riproporre in chiave fruibile anche oggi uno spettacolo teatrale con un twist particolare. Infatti le tre signorine che interpretano questo trio nella finzione scenica antagonista al Trio Lescano è interpretato da tre ragazzi che hanno travestì, vestono panni femminili, e quindi c'è questo aspetto teatrale molto, molto importante. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare, e se mondo maldicente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Lo so che ritorno c'è tanta ironia, sorrirò ritorno e poi tiro via. Ma di quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Qual è il segreto delle sorelle Marinetti? Allora, molto probabilmente il pubblico ci ha amato fin da subito perché abbiamo questa immagine rassicurante, e probabilmente facciamo pensare alle nonne, alle bisnonne addirittura, perché ci seguono anche i ragazzi molto giovani. Perché questo stile è comunque nel DNA italiano e fa subito simpatia. La gelosia non è più di moda, è una follia che non si usa più. Deve avere il cuor contento, stile novecento, per goder la gioventù. Vi siete creati anche dei personaggi molto precisi, non sono tre sorelle a caso, ognuna ha la sua personalità. Sì, ognuno di noi ha la sua personalità. Turbina è la sorella maggiore, quindi la più anziana delle tre sorelle, che in qualche maniera nello spettacolo fa da paciere alle due sorelline, che sono diverse sia per età e anche per indole. Scintilla è la sorella più birichina, quella più proiettata alla modernità e al futuro, invece Mercurio è quella più legata al passato, alla poesia, e infatti anche i nomi in qualche maniera ci rappresentano. Turbina è il motore del gruppo, Mercurio è la più mercuriale, la più sognatrice, Scintilla lo dice la parola stessa. Parlano fra loro i tulli, tulli, tulli, tulipan, mormorano in coro i tulli, tulli, tulli, tulipan. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Repertorio che ci riporta alla mente un periodo storico affascinante ma complesso, e ci porta alla mente alcuni grandi personaggi come il Trio Lescano. Voi studiate proprio anche col maestro Schmitz anche proprio questo periodo dal punto di vista musicale e vocale. Come lavorate in questo senso? È stato un lavoro molto faticoso per certi versi, ed anche ha richiesto molto tempo, quasi un anno di preparazione prima di debuttare con il progetto delle sorelle Marinetti, perché comunque lo stile di canto che adoperiamo noi e che adoperavano le sorelle Leschan era quello del canto armonizzato, che ad oggi è desueto, dove la linea melodica per i componenti del gruppo è differente, non c'è un canto all'unisono, quasi mai. Tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Dicembre, periodo di feste, avete anche uno straordinario repertorio natalizio. Un po' un ricreare quello che poteva essere l'atmosfera del periodo dell'Avvento in una casa italiana degli anni 30 e 40. Quindi il repertorio delle sorelle Lescano e il repertorio swing italiano sempre degli anni 30 e 40, ma anche alcuni bellissimi brani natalizi che sono gioco forza di importazione, perché in Italia non esisteva la tradizione della canzone, diciamo, jazzata o swing di tipo natalizio. Esistevano i canti dell'Avvento, i canti sacri, però questa tradizione, questa grande tradizione, arriva direttamente dagli Stati Uniti. Quindi presentiamo alcuni brani bellissimi, come ad esempio White Christmas, che presentiamo in realtà in una duplice veste, sia in inglese che in italiano. E poi altri brani che erano stati un grande cavallo di battaglia delle Andrew Sisters, per esempio Winter Wonderland, e poi altri brani bellissimi sempre di tono natalizio. Io però ho avuto il permesso dal vostro produttore Giorgio Bozzo, il papà di tutto questo progetto, di svelare un segreto. State lavorando tutti insieme a una commedia, un grande musical. Già qualcosa mi dice che sarà una produzione alla Garinei e Giovannini, un musical però agrodolce. Che cosa mi volete già svelare? È una commedia musicale che dovrebbe debuttare, perlomeno noi speriamo che così succeda, nel gennaio del 2014, e che dovrebbe chiamarsi L'abito da sposa. Giorgio sta scrivendo appunto il testo, ci siamo confrontati rispetto a quella che potrebbe essere la storia, e la cosa molto divertente, ed anche per certi versi è un po' un doppio salto mortale per noi come sorelle Marinetti, è che non solo Marco, Andrea e Nicola interpretano le sorelle Marinetti, ma le sorelle Marinetti interpretano dei personaggi in questa commedia, quindi c'è veramente un gioco attorale molto molto complesso. Forse Nicola sa qualcosa in più anche. Sì, e dal punto di vista musicale Christian Schmitz firmerà le musiche e le canzoni che verranno eseguite durante questa commedia. Alcuni giorni fa abbiamo cominciato a provare il suono e il sapore di alcune canzoni e devo dire che sono molto belle. Però da gennaio riprende il tour con il repertorio classico delle Sorelle Marinetti, è così? Certo, ricominceremo a girare in lungo e in largo l'Italia con il nostro spettacolo Non ce ne importa niente, insieme all'orchestra diretta da Chicco Maniscalchi, l'orchestra Maniscalchi appunto, che praticamente si rifà a quello che erano le orchestre swing del tempo. Erano le Sorelle Marinetti, ci ritroviamo tra poco con la seconda voce in scena di oggi. La seconda voce in scena di oggi è quella di una delle cantanti più famose della musica italiana, tornata in pubblico dopo 7 anni d'assenza. Il dire le bugie no, non sta bene e non si fa, si deve dire tutta, sempre solo la verità. Ma i grandi non la dicono, e se io la dico, beh, succede un pandemonio e tutti danno la colpa a me. Esempio. È nata a Torino nel 1945, debutta nel 1959 al Teatro Alfieri di Torino in uno spettacolo per bambini. Nel 1962 partecipa alla prima edizione del Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Il patron della manifestazione è il cantante Teddy Reno, che diviene immediatamente il suo Pigmalione. 6 anni dopo i due si sposeranno. La vittoria le porta un contratto discografico. Poco dopo il suo esordio raggiunge un'incredibile popolarità nazionale e internazionale, grazie a singoli di enorme successo. Negli anni 60 è protagonista anche di alcune pellicole cinematografiche appartenenti al filone dei Musicarelli, film dagli incassi miliardari. Negli anni 70 continua a pubblicare dischi di grande successo e a lavorare in TV e a teatro. Negli anni 80 intensifica la sua attività di cantautrice, ultimo album di inediti nel 1989. Il 1 gennaio 2006 rende ufficiale la scelta di ritirarsi a vita privata dopo aver cantato per l'ultima volta in pubblico. Nel 2010 è stata l'inaspettata ospite ad uno degli 8 concerti di Renato Zero in occasione dei suoi 60 anni. Nel 2012 torna in pubblico per un giorno per presentare la riproposizione su Rai 5 dello sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca. Lei è Rita Pavone. È un ricordo bellissimo legato prima di tutto alle persone che c'erano, questi grandi attori che non se la tiravano per niente, che non hanno avuto l'atteggiamento scostante, questa viene qua, fa la protagonista, fa fino a ieri cantante così, ma mi hanno aperto le braccia, mi hanno aiutato molto. Io non sarò mai abbastanza grata a Valeria Valeri, a Paolo Ferrari, a Noldo Foà, a persone che mi sono state veramente vicine, che mi hanno dato una mano, Milena Vukotic, persone che sono... Poi Lina mi lega un grande affetto, è una persona straordinaria, una donna di una vitalità, di una capacità, il suo libro è divertentissimo. Io ho questo ricordo di bello, io ero terrorizzata, chissà che succede, non ho mai fatto questo, sarò in grado di farlo. E sentendomi con le spalle coperte, sentivo questo affetto, e devo dire la verità, io mi sono guardata poco. Mi è piaciuto quando mi sono vista dopo che non mi interessava più il discorso, vedevo le sfumature, sono riuscita a dare un giudizio spassionato, qualche volta dicendomi avrei potuto fare meglio, qualche volta però qui me la sono cavata bene. Poi un'avventura straordinaria vissuta doveva essere un programma pomeridiano e invece hanno giocato questa grande carta di portarlo sabato sera, che era il sabato sera apparteneva alla varietà, alla rivista Falco, il sacerdote, Mina, Walter Chiari, Le Kessler, no? Portare uno sceneggiato poteva essere un grande, perché all'epoca c'erano le giornate, il giovedì c'era la prosa, no? E invece hanno portato questa cosa e si aveva una grande paura. La prima puntata è che quella d'apertura, dove comincia a far capire il senso del discorso, ci sono state le critiche: non vorremmo che la montagna avesse partorito il topolino. Alla terza puntata si è scatenata l'apoteosi, è diventato un successo, 13, 12, 13, 14 milioni di ascolto, una follia. Ecco, ho fatto sul mio nuovo giornalino il mio autoritratto, Giannino Stoppani, detto dai calunniatori Gian Burrasca. Io non sopporto questo soprannome di Gian Burrasca. Yeah, viva la papa papa, attolo pomodoro, viva la... C'era stato anche addirittura un'interpellanza parlamentare, perché era un po' trasgressivo questo Gian Burrasca. Sì, trasgressivo perché scappava di casa, e allora in questo caso loro dicevano: questi bambini dove possono prendere di riferimento, e ci fu un'interpellanza, una cosa assurda, questo è diseducativo e non è bello per i bambini, è una cosa che può essere... E portarono avanti questa cosa che la Vermeulen diceva: ma sono impazziti. Poi qualcuno appunto è stato un momentino più saggio, ha detto: ragazzi, stiamo facendoci ridere dietro. E allora hanno poi chiuso il tutto, l'hanno poi insabbiato, ma c'è stata un'interpellanza, volevano portare, niente, questo non è una cosa bella per i bambini. Poi tutto, se vedessero quello che passano oggi in televisione, anche col bollino rosso, forse dovrebbero farsi un po' di autoanalisi, no? Come si dice? Critica. Mi chiama Gian Burrasca, Gian Burrasca, è provvero che non è giusto, no. Cosa pensa del fatto che ancora oggi si utilizzi Gian Burrasca proprio come pietra di paragone, come esempio? L'hanno fatto anche recentemente i politici. Gian Burrasca è perché un personaggio è un cane sciolto. Cioè è libero, è uno che, al quale è stato insegnato qualcosa, e lui porta avanti questi insegnamenti dicendo: ma come, se me l'hanno detto che così deve essere così, e porta una sua logica. E la cosa bella di questa storia, di questo libro, è che proprio il bambino diventa uomo, e nell'aspetto ludico della storia, che è il divertimento, le canzoni e tutto, c'è un aspetto tragico di quello di scoprire che il mondo non è quella favola che gli hanno raccontato. Per quello io credo che invece sarà molto interessante per i ragazzini, che si stacchino un po' da questi mostri, ma che vedono una realtà vera di un bambino che vive una sua realtà. Io penso invece che sarà molto interessante. Sto vivendo con te, i miei primi tormenti, ancora sempre la verve, la vitalità, non le manca un po' questo mondo, la televisione? Perché quante telefonate, perché non vieni, sei ospite nostra. Io dico: non c'ho niente da dire. Il giorno che avrò qualcosa da dire, vi prometto, io, mia mamma diceva: non dire mai di questa minestra non ne mangio, perché potrebbe accadere. Allora io per il momento non sento, la bestia non si è risvegliata. C'è una... sto elaborando un progetto che potrebbe accadere, non mi metto dei limiti né so quando, però è un progetto che è fatto da Rita per Rita, che è diverso. Io sono stata molto scontenta di quello che ho fatto negli ultimi anni discograficamente, non mi piaceva, non mi sentivo, non era quello che... E vorrei fare qualcosa dove io mi dico: oh, questo sì che è una bella cosa. Ecco, Diciamo che questa è la cosa che mi interessa di più. Non ho voglia ancora di tornare in scena. Mi piace, sono stata da Renato, è stata una cosa estemporanea. Ho detto non dire niente a nessuno che vengo, perché non voglio che pensino che è un ritorno. Non è un ritorno. Però ho visto un affetto, ho visto una cosa, mi sono detta, beh, Rita, hai seminato bene, perché poi quello che c'era non era il mio pubblico, non c'era nessuno dei miei fans, nessuno lo sapeva, però l'affetto con cui sono stata ricevuta, e Renato va a dire, Ari, ma guarda che qui c'è tutta Roma che parla ancora di te, è stata una cosa bella, mi sono detta, beh, se vocalmente sono a posto, anzi forse sono al meglio delle possibilità, la verve c'è, ancora non cedo, può darsi che un pensiero ci faccio, adesso elaboro questo pensiero, però non sento questa voglia di tornare in scena, vedo le cose in televisione, le guardo, i litigi, o le cose brutte, il cantante che canta meno bene, lo vedo senza sentirmi più parte di quella cosa, e la vedo distaccata, e fa bene, no? Perché... prima ci si rammarica quando vedi qualcuno che non ha i meriti e sta lì. Qualcuno che viene chiamato Showgirl e tu ti dici, ma allora come la chiamiamo Delia Scala? Come la chiamiamo Lorella Cuccarini? Come la chiamiamo Raffaella Carrà, Loretta Goggi? Capito? E non c'è più la meritocrazia. Io una volta mi facevo macinare di dentro. Adesso invece vedo, prendo atto che... È una realtà. Prima o poi ci sarà un ritorno a volere qualcosa dove tu dici, ah, finalmente questo ha qualcosa da dire, capito? Ci sarà e sarà lo stesso pubblico che farà le divisioni, che farà gli scomparti, questo sta qui, questo lo mettiamo lì, quello lo mettiamo là. Però lo vedo come una spettatrice, che è diverso, che come parte in causa. Rita Pavone era la seconda voce in scena di oggi. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.